qualcosa di patologico nell'uso spettacolare che la società ben pensante ha sempre fatto dei gemelli. È il caso, a volte tragico, a volte doloroso, di un'eguaglianza ottenuta a tutti i costi per essere rivenduta come diversità. Radio Popolare vi ha presentato La Caccia, Caccia l'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno a tutti, grazie per l'ascolto, grazie per la regia Cristiano Valli e l'appuntamento rimane confermato a domenica prossima alla medesima ora. Buona settimana.